Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinili Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. La regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Giusto per resistere, diventata 21 e 15 minuti. Gioia apparente, dolore evidente, dolore apparente o gioia evidente. Dove sta la realtà? Sono? Ecco, ora sì. Allora, 21 e 15, bentrovati per una nuova puntata di Do It Yourself Invasion. Siete sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale. E quindi l'appuntamento del giovedì dalle 21 alle 22. Spazio dove andiamo, insomma, ad incuriosirci, a raccontare tutto quello che gira intorno al do it yourself musicale e non solo. E ricordiamo brevemente i contatti della radio. Radio che ha festeggiato da pochissimi giorni. Martedì scorso, il 24 maggio, abbiamo fatto 39 anni di autogestione. E quindi ancora auguri a Radio Onda Rossa. che potete ascoltare anche attraverso il sito, quindi al www.ondarossa.info. Potete ascoltare le trasmissioni della radio in diretta streaming, oltre le barriere dell'FM. E sempre attraverso il sito potete sostenere questo progetto. Che va avanti appunto da 39 anni, grazie al sostegno di radioascoltatori e radioascoltatrici. E quindi andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati ad una pagina con tutte le coordinate per poter sostenere questo progetto. Nonché potete partecipare alle iniziative di autofinanziamento. Nel corso della puntata, insomma, andremo a svelare qualche appuntamento imminente. O potete sottoscrivere attraverso lo storico conto corrente postale il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00 185, Roma. Se non avete fatto in tempo a segnarvi queste coordinate, le troverete sempre sulla pagina dedicata dal sito di Radio Onda Rossa. L'email di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info. Quindi per segnalarci iniziative, per proporci le vostre autoproduzioni. Non per ultimo il numero di telefono 06491750. Allora andiamo a preparare il primo collegamento di questa sera e poi andremo più avanti a presentare gli ospiti fisici di questa sera. E noi vi lasciamo con gli Sfera, da uno split Sfera alla Sintesi. Allora, ci proveremo più tardi. Allora, intanto presentiamo gli ospiti di questa sera. Allora, buonasera, buonasera. Ci riproviamo magari, no? Questa sera con i cursori. Io mi sento. Ci sei. Allora, abbiamo Pamela in diretta da Montelanico, sbaglio? No? Beh, io sono di Colleferro. Colleferro? Credevo Carpineto, in no. realtà. No. Colleferrina. Infatti, mi dovevo portare un pezzo oggi che poi ci ha abbandonato. Gabri dei 666. Ah. Cioè, oramai è Gabri dei 666. Sì, sì. Il gruppo precedente è stato no, dimenticato nell'oblio. Ormai bruciare tutti i dischi. Ok. Una nuova era. Va bene, benvenuta Pamela. Già grazie. Una conoscenza di Radio Onda Rossa, perché credo siano passati due o tre anni. Beh, sì. Sì. Due o tre anni fa, per la presentazione della vostra prima autoproduzione. Sì, esatto. Che memoria. Bravo. Esatto. Eh sì, Pamela De Mefitica, che questa sera ci è venuta a presentare un'iniziativa che è dal tramonto all'alba. Esatto, seconda edizione che si svolgerà domani all'orto occupato, appunto a Montelanico, che si trova proprio un po' prima di arrivare al paese. Poi troverete le indicazioni e dovrete svoltare su via Vigne Nuove. Poi tanto ci sono indicazioni, quindi tranquilli. Ma no, poi insomma andiamo anche a ricordare che diciamo Pamela, insomma, tra chi insomma tra le compagne e le compagne di Montelanico ha organizzato l'iniziativa Benefit per Radio Onda Rossa dello scorso 24 maggio insieme a Terra Madre, no? Esatto, è andato bene il concerto, siamo divertiti, no? Sì. Insomma, conosciuti appunto tra i boschi di Montelanico. Poi ricordiamo anche l'anno scorso avevamo fatto avevamo registrato il concerto all'interno di un'edizione del Macera Fest. Poi lo racconteremo più avanti, anche quest'altro appuntamento. Insomma, dove si svolgerà quest'anno il Dal Tramonto all'Alba? Allora, all'orto occupato, Montelanico, su strada via Vigne Nuove. Poi ci sono i cartelli prima di arrivare al paese. Allora, questa occupazione quando nasce? Come nasce? Questa l'anno scorso, più o meno. Però dovresti parlare con i ragazzi di Terra Madre, certo, farti certo. Spiegare i minimi particolari. Quindi sono sempre, insomma, tra chi va a comporre il collettivo del Terra Madre? Sì. Che saranno presenti anche quest'anno, immagino, insomma, a curare l'ambiente, cioè il settore, sì, gastronomico, esatto. No? Sì, si occupano loro tutti i prodotti dell'orto, tutta roba biologica, tutte cose sane. Bene. Allora, seconda edizione, invece l'edizione dell'anno scorso dove si era svolta? Sempre all'orto occupato? Sì, è stato il primo concerto che abbiamo fatto lì. Sono venuti i ragazzi del bench pure a darci una mano. Bella serata, insomma. Hanno chiuso i Romanez. Ah, vabbè, immagino che hanno chiuso in orario un po' tardivo, diciamo, però dal tramonto all'alba vorrei evitare che diventi così, perché ci sono anche i Tetano da Benevento, non mi va di fare suonare alle 3 di mattina, insomma. Vabbè, però cioè, un po' pure è colpa tua. Se chiamate un festival dal tramonto all'alba, poi cioè, non è che vi dovete lamentare. L'alba si intende il dopo concerto. Quindi arrivare all'alba a concerto finito, esatto. Idealmente. Allora, vogliamo cominciare a sentire qualcuno dei gruppi che parteciperanno appunto a questo festival? Sì, te li dico proprio in ordine. Sì. Io sono quasi pronto. Allora, quando vuoi. Allora, apriranno i Buttero intorno alle 9:30. Da Paliano. Vabbè. Tuton. No, cogliamo insomma l'occasione che è appunto citato i Buttero da Paliano per ringraziare appunto tutta la 1% più esatto, che a Paliano sabato scorso ha organizzato un benefit per Radio Onda Rossa. Possiamo garantire che sono dei pazzi. Esatto, tutti, finito tutti in mutande. No, no, grande coesione, grande partecipazione del pubblico, gente che camminava sul soffitto, è possibile, l'ho visto fare da più di una persona. E, no, un abbraccio veramente a Fabio dei Social Trauma, a tutti i Buttero, insomma. Oddio, Max Carnage, che hanno partecipato quella sera, e poi qualche gruppo che me lo scordo, però magari qualcuno mi ricorda. No, va bene. Insomma, vabbè. C'è un ospite fantasma vicino a me. Abbiamo un ospite. Un ospita fantasma. Va bene, va bene. Allora, prepariamo subito i Buttero. Vabbè, due parole. È un super gruppo. È un super super gruppo, sì, sì. Grande rivelazione. Sì, da vogliamo ricordare i componenti, da quali gruppi. Allora, Mosh viene da Social Trauma. Nervo Capra, mi sembra, c'aveva pure sta band che sta un po' in stallo, poi credo che continueranno comunque. Giorgio invece non lo so. Va bene, va bene. È uscito dal nulla. Dal nulla? No, no, è grandissimo. Come definire la musica di Buttero? Tra poco l'ascolteremo, però insomma, come definire? È indefinibile. Cioè, è tutto. È tutto. Va bene, allora ascoltiamo gli Ypsilon, Buttero Ypsilon da Paliano, dai. Perché me lo chiedi? Sembri malato. Sì, sono malato. Prendi le medicine? Non c'è medicina per la mia malattia. La conosco. L'intero mondo ce l'ha lui e l'universo intero. Non ce l'ha di cantare. L'intero mondo ce l'ha lui, l'universo intero. Ce l'ha lui, l'intero mondo. Insomma, questo era un assaggio dei Buttero. Allora, poi proseguiamo insomma ad assaggiare quello che insomma potrete assistere domani sera. E ci abbiamo i Malore. Poi vabbè, insomma, da cosa nasce cosa, mi viene da ricordare appunto il concerto del prossimo 11 giugno a sostegno di Radio Onda Rossa con Social Trauma, Injury Broadcast e Malore, appunto, che apriranno gli Obofobic. Poi ve lo ricorderemo spesso questo appuntamento, al CSOA, Ricomincio dal Faro al Trullo. Insomma, Malore li ho scoperti a Spartaco, sono stata una sera lì, visti suonare, presi. Cosa ti ha colpito di Malore? L'attitudine e la cover dei Scruigner. No, vabbè, Malore che vengono da Civita Castellana, dalla Tuscia, sì. E lo stavamo dicendo un po' a microfoni spenti prima, sono il gruppo hardcore della Tuscia che si distacca un po' dai canoni dell'hardcore melodico viterbese della Tuscia, insomma, no? Vero, vero. Che ha fatto un po' scuola negli ultimi 20 anni, insomma, a fasi alterne, però ha continuato nella tradizione appunto hardcore della Tuscia. Loro sembrano quasi un gruppo hardcore milanese, poi non è a caso la cover magari degli Scruigners, no? Forse, vabbè. Vabbè, dai, allora ce li sentiamo, così magari ci dite cosa ne pensate. Sembrassi immobili all'arrivo quotidiano, aspettano ogni attimo con corpi vuoti, continuano a cibarsi di te. Aspetti qualcuno che riscatti il tuo dolore, che rode nell'animo la tua di rabbia. Fa che esca, guardi attraverso vetrine buie, è ora di romperle tutte. La vostra libertà è appesa stessa in giù, guardatela via chi che fa di oppressione. È ora che esplodono, ora che lottano. Mire se volte da troppo calpestate. È ora che esplodono, è ora che lottano. Allora, insomma, da Montelanico, Colleferro, Carpineto. Com'è la situazione di musica? Insomma, ci sei? Sì, sì, sì, sì, sì. No, insomma, stavo pensando, avete iniziato a organizzare concerti ormai da qualche anno, 3-4 anni. Da 3-4 anni, in che situazione musicale? Beh, in provincia, cioè da noi, l'1% sono tantissimi che seguono la scena. Noi siamo un po' pochi, Colleferro, Montelanico, poca roba. Carpineto, 3-4 persone così. Però poche persone che hanno. Però partecipano, sì. Molto attive, che insomma. Diciamo che speriamo più in un pubblico da fuori, da Roma, ma anche da altri paesi, insomma. Perché insomma, Paliano è fortunata con l'1%, perché sì. C'è stato un concentramento esatto. Magico, insomma, di tanti pischelli e tante pischelle in un unico posto, quindi c'è questa mini scena che è una grande scena. Vabbè, insomma, spirito da conoscere, quello della 1%. Invece dall'altra parte dei monti, zona di Montelanica, appunto, e Colleferro, poca gente, però con voglia di organizzare, che non riesce a stare ferma. Esatto. Allora, ma invece Colleferro, a parte i Placcaggio, altri gruppi della zona? Ma che io sappia, no. No, no, perché c'è qualcosa black metal, band, qualcosa sul metal, però poche cose. Ma se è black metal è sempre l'influenza dei Black Cage, immagino. Sì, sì. Va bene, quindi le iniziative che organizzare però sono di richiamo per tutto il territorio italico ed andate a attingere anche ovviamente a zone fuori anche dal Lazio. Sì. Il prossimo gruppo che abbiamo preparato che sarà presente domani sera, chi sono gli Evil Cosby da Milano, che tra l'altro mi hanno contattato loro. Gli era arrivata voce che io organizzavo delle cose in provincia di Roma e niente, mi hanno chiesto di suonare, poi ho ascoltato, poi c'è una donna, quindi benissimo, benissimo. Lei al basso e voce, sono un duo e batterista. Va bene, andiamo a sentire questa vocina. Loro sono gli Evil Cosby. Delicatina. Questi erano gli Evil Cosby da Milano? Sì, Sludge Doom Hardcore. Fantastico. Benissimo, fantastico. Flussi di persone che osservano, inquiete, grandi testimoni operai del loro vittimismo, mentre tutto intorno al grande disegno si estende. Allora, insomma, continuiamo con la scaletta che appunto ad attingere al bill di domani sera. Allora, tra l'altro, no, ricordando sempre di domani sera, a parte insomma il collettivo Terra Madre, lo ricordiamo, un collettivo attivo appunto a Montelanico che tenta insomma di riappropriarsi di terre abbandonate, di terreni demaniali, appunto ridestinarli all'agricoltura, farli fruttare e poi insomma rimettere in rete alcuni insomma dei prodotti che riescono a tirare su. Quindi insomma partecipando domani sera insomma si contribuisce anche a mantenere vivo questo progetto, nonché frequentare le montagne di Montelanico che vanno difese. Esatto, sono stupende poi tra l'altro. Perché, insomma, no, ricordo lo striscione che era l'ultima iniziativa il 24 aprile, io sto con le montagne. Sì, sì, quello c'è sempre. Bene, bene. Ci sarà spazio per distro? Sì, sì. poi qualche banchetto mettiamo, quindi chi vuole, insomma, chi volesse venire anche da Roma con la propria pedista, aperto a tutti. Benissimo, benissimo, c'è spazio, c'è spazio. Poi ci sarà la possibilità anche di, no, nel caso, insomma, che dal tramonto all'alba sia anche una frase profetica, c'è la possibilità di campeggiare, no? Sì, sì. Quindi, insomma, al fresco, al fresco. Al fresco, infatti, munirsi di sacco a pelo. A quanti metri sarà il concerto? Com'è? No, vabbè, non è molto alto lì, cioè. Non siamo in montagna, sì, è più campagna. Non spaventiamo, campagna, non vi spaventate. Aria pura. Aria pura. Dai, che ci abbiamo pronti? Vabbè, poi ci siamo noi. Si può anche evitare di passare. Va bene, insomma, un minuto e 34 di veleno mefitico. E poi la canzone dura 50 secondi, effettivamente, quelli sono un intro e un finale. Questo è del 2013. 2013, sì. Ok. Allora, magari dopo il pezzo andiamo a anticipare qualcosa dei progetti futuri di Mefitica. Intanto, Mefitica, sangue di latte. Dalla triade sotterranea. Esatto. D'altronde, insomma, vi definite come sound negro hardcore. Happy hardcore. Come? Happy hardcore. Sì, sì. Allora, appunto, Mefitica, attività live degli ultimi tempi, pazzesca. Sì, cioè, non so, vuoi ricordare il tour un po' spezzato, infatti, di fine settimana, però vabbè. Vabbè, diverse da, cioè, nell'ultimo anno, penso. Non lo sì, so. Quest'anno proprio. Quest'anno? Sì, una Eboli, Rimini e Foggia. Tutti posti fighi, gente figa, da paura. Bene, bene. E domanda, insomma, di rito: progetti futuri dei Mefitica? Stiamo progettando di fare l'album nuovo. Ho conosciuto da poco Valerio Physic. L'inferno e tra le altre cose degli Inferno, insomma, anche, sì. Anche batterista di un gruppetto Marclango, che tra l'altro saranno ospiti di un altro festival che stiamo organizzando, che è proprio il Terra Madre Fest a luglio, si terrà 15 e 16 luglio insieme a Mass Carnage, e poi ci saranno altri gruppi il sabato, il mio progetto solista, e niente, insomma, con l'anno nuovo entreremo in studio più o meno. Stiamo lavorando a qualche altro pezzo nuovo, per arrivare tipo forse a 12 pezzi che dureranno più o meno un quarto d'ora. Però insomma, pezzi che già avete pronti, insomma. Sì. Bene, bene, bene. Allora, insomma, no, già nel corso di questi pochi minuti in chiacchiere già hai citato tre iniziative, no? Dal tramonto all'alba, il Macera Fest, appunto il Terra Madre. E vabbè, insomma, c'è un botto di gruppi che verranno a suonare a Montelanico. Come vai a scegliere poi i gruppi come andate a scegliere poi i gruppi che suoneranno in questi festival? Qual è? Vabbè, in primis è un gusto personale, però poi si cerca di far suonare tutti, insomma, se qualcuno me lo chiede magari metto in lista, poi se non c'è spazio quest'anno magari si fa l'anno prossimo. Però ovviamente a gusto personale. Però insomma, i generi dei gruppi che andranno a suonare in questi festival sono diversi, non sono sì. Festival tematici di un'unica sonorità, no? No. Poi magari si va a scegliere il gruppo che ci ha più presa bene di suonare in una situazione sì. Del genere, che insomma, ricordiamolo, in mezzo alla natura, in un orto occupato, appunto. Esatto. Quindi insomma. C'era e introduciamo anche il gruppo. Eccoci. Allora, mentre vanno sotto i Leviathan. E poi il gruppo di domani sera che viene da fuori. In chiusura. No, a parte. Sì. Ah no. Oltre insomma gli Evil Cosby sì. Da Milano, verranno anche dal sud. I Tetano da Benevento. Allora, questi sono i Tetano di Stato si muore. E adesso possono spararci. Avanti. Possono metterci in galera, non c'è problema. Possono bastonarci, fatelo pure, siamo pronti a sopportare di peggio. Possono scaraventarci dalle finestre del primo piano, ma noi sappiamo volare. Possono presentare le cose come non sono, nei loro media monopolistici. Prego, fate pure. Possono adeguare la loro giustizia alla loro violenza, ma è chiaro che lo faranno. Possono arruolare i democratici per rubarci gli ideali, sappiamo che ci proveranno. Possono metterci al bando, fermarci, combatterci, terrorizzarci. Ucciderci. Possono chiudere gli aeroporti, le stazioni, le strade e le menti. Possono provocare e complottare, ingannare e prosperare, distorcere e distruggere. Possono fare le leggi, altre leggi e leggine per i loro comodi. Possono costruire armi più potenti e più efficaci per attaccarci e arricchire i loro soci. Possono venderci carte false, venderci la paura. Possono venderci. Possono chiamarci consumatori invece che cittadini, apatici invece che incazzati, senza interessi invece che senza illusioni. Possono farci disperare e piangere, temere e odiare, correre e nasconderci. Possono prendersi il nostro lavoro, i nostri soldi, le nostre vite. Ma noi siamo qui col fuoco della giustizia. Siamo qui con l'onore delle nostre idee. Siamo qui con desideri giusti. Siamo qui inarrestabili come la pioggia. Possono spararci. Avanti. I'm gonna fight it, I'm gonna fight it. E insomma, consigliamo da queste parti di andarvi a scaricare di Stato si muore di Tetano. Lo potete trovare in free download, penso su Punk for Free sicuramente. Insomma, no, ci fa molto piacere sempre vedere i concerti dei Tetano, soprattutto per le parole che usano sul palco. Insomma, l'hardcore è veramente usato come arma sovversiva. E quindi, no, bella prova, insomma, di aver chiamato. Sì, suoneranno pure al Benji. Al Benji, ah, esatto, no, lo ricordiamo più tardi, il compleanno del Benji Venga, su 3 giorni. O magari più tardi andiamo a ricordare anche una parte del programma. Insomma, ricordiamo, prima di andare a presentare un altro festival sempre a Montelanico, Carpiniere questa volta. Allora, invece, dal tramonto all'alba a Montelanico. Macera Fest, Carpiniere Romano. Ok, quindi domani sera dal tramonto all'alba dalle ore 21:30. Quindi arrivando da Roma, come si arriva a Montelanico? La 1, uscita Colleferro, e poi si prosegue seguendo i cartelli Carpineto Montelanico. Prima di entrare al paese troverete i cartelli per il festival, girare su via Vigne Nuove. Quindi segnalato, insomma. E invece il Macera Fest? È la settimana prossima, venerdì 3 e sabato 4. Due scalette diverse, una serata un po' più estrema e l'altra serata un po' sul punk rock, diciamo. Vabbè, un boato di gruppi, ne andremo ad ascoltare qualcuno. Ci vuoi ricordare il programma di questi 2 giorni? Allora, il venerdì saranno Sposa in Alto Mare e Belzebit da Padova, Grumo da Modena, Airlines of Terror da Roma, Social Trauma da Paliano e noi Nefitica. Poi il sabato ci saranno Inis da Foggia, Dirty Jobs, Alieni, Adolips, Cockroaches e Nuari. Quindi una serata un po' più rock and roll. Sì, tranne per Inis, che hanno dovuto per forza suonare il sabato per problemi di lavoro, che comunque fanno crust. Beh, intanto benvenuta Postata. Allora, chi andiamo ad ascoltare del per il Macera Fest, appunto, del prossimo weekend? Sposa in Alto Mare. Ok, questo è black metal. No, non ricordiamo il titolo, però ve lo diciamo subito, Black metal Latin Lover. Quali disastri causeranno? Le porte dell'inferno si sono aperte. We'll be right back. Allora, Spose in Alto Mare, vabbè, cioè, a parte la proposta musicale, cioè, sono da vedere. Esatto, sì. Poi una sera ero al 360 e ho beccato il chitarrista dei Spose in Alto Mare che suonava con un'altra band, i Belzebit. Grindabilly. Fantastico. Quindi ho preso due piccioni con una fava e li ho invitati. Quindi un furgone e due gruppi. Un furgone e due gruppi. Bene, bene. Vabbè, volevi passare. Cioè, ci siamo, Spose in Alto Mare, quindi. Un furgone, due gruppi, ci ascoltiamo i Belzebit. Insomma, Spose in Alto Mare e Belzebit da Padova. Quindi insomma, ci sarà occasione anche di ballare, mi pare di capire, no? Abbastanza. Sì. Poi il sabato ci saranno anche Nice da Foggia, siamo stati da ospiti loro a suonare all'Oscuria, che è un'ex università, che è stata occupata 2 anni fa, però purtroppo già sta sotto sgombro. È veramente un dispiacere, perché a parte è enorme, cioè noi ci hanno dato proprio la chiave con la stanza, un i letti, cioè una cosa allucinante, bellissimo, cioè. Bellissimo veramente. La gente purtroppo a Foggia non è stata molto partecipe di questo centro sociale, che poi è l'unico che c'hanno a Foggia, e quindi vabbè, niente. Ma sgombreranno, stanno sotto sgombro, diciamo, sì. Connettete le loro madri. Va bene, appunto, passiamo in Nice da Foggia, presente alla giornata di sabato del Macera Fest del prossimo. Oddio, che giorni sono? Settimana prossima. Mi sono perso. 3 e 4 giugno. 3 e 4 giugno. Dai, inizia. We'll be right back. Insomma, andiamo a chiudere così. Sono le 22 e 5 minuti passati. Rimanete all'ascolto, perché tra poco inizierà una nuova puntata di Apostasia. Noi quindi andiamo a chiudere la scaletta preparata da Pamela a presentazione dei due festival, uno di domani sera dal tramonto all'alba e quello del weekend prossimo, il Macera Fest. Ma è abbandonarsi a questi giorni tristi e immobili il tuo sogno unico. Allora, chi ci abbiamo in scaletta come unica band di Carpineto Romano? Che fa, nulla passi? Un po' fuori tema, però ci sta. Vabbè, fuori tema come sonorità, però sì, insomma c'è sempre una base di punk nel cuore, certo. L'attitudine è quella. Vabbè, sonorità distanti, insomma, dalla resto. Ma ricordano anche un po' vagamente i primi Asker Du, quindi. Sì, no, è vero. Però a parte la musica, che tra l'altro lo dicevamo pure prima, no? Quando insomma ti ritrovi magari a Roma a formare un gruppo, hai la possibilità di scegliere il chitarrista che fa crust e il batterista grind. Però ci voglio un tocco di rock and roll e magari c'ho l'opportunità di contattare. E così quell'amico... le band risultano un po' tutte sì, uguali. È vero. In provincia abbiamo questa cosa che di ascolti diversi, che poi si crea sto mix di necessità virtù, e quindi esatto. L'unione magari non è legata a gusti musicali in comune, ma anzi queste differenze magari vanno ad arricchire e a portare originalità, una ventata di tanto di originalità. Quindi in pieno spirito di vicinanza con le montagne di Montelanico, meglio dei Nuari non ci possono essere. Allora, Nuari Funeral Shroud. E queste erano delle montagne di Montelanico, i Nuari, dal disco Oh mio Dio. C'ho un vuoto di memoria adesso. Va bene. Poi quando pubblicheremo insomma la scaletta, magari daremo qualche informazione anche dei gruppi che abbiamo presentato questa sera. E quindi insomma, se non abbiamo nient'altro da aggiungere, andrei a chiudere la nostra chiacchierata, così diamo spazio. Vabbè, anche... ultima cosa, sì. Volevo dire che noi quest'anno la situazione è cambiata al Macera Fest, quella del festival per la prossima settimana. Prima lo facevamo nel nostro terreno privato, però non abbiamo più soldi da investire perché abbiamo persi tanti, perché comunque la gente ha partecipato poco l'anno scorso, più il primo anno. E quindi ci siamo, diciamo, associati a questa associazione Il Carpino e collaboriamo con loro in modo tale che assicuriamo a tutti i gruppi di essere ripagati, i gruppi di fuori intendo. No, mi ero perso un attimo nel... stavo coagulando un pensiero, no, appunto è questo. E no, vabbè, poi insomma, chi frequenta le iniziative a Roma, sia Pemela che Mefitica che la 1% Crew è abituata insomma ad incontrare, perché poi tra l'altro organizzano anche concerti a Roma, nonché il fine settimana spesso si vedono qui in giro a Roma. Quindi una volta, quando ci sono iniziative nelle montagne, quando si muove qualcosa della scena do it yourself, che tanto supportiamo, insomma è una buona occasione per andare a sostenere queste iniziative spontanee. Ti ascolterò. Non tanto, mi arrivano messaggi in codice che non comprendo. Quindi insomma, l'invito è a partecipare e a sostenere queste iniziative. Dai, muovete le chiappette da Roma. Su. Esatto. Dai, allora, grazie Pamela. Grazie Dario. Grazie ospita fantasma. Ciao ospite fantasma. Dai, allora, ci vediamo domani. Ok, ciao. Ciao ciao. Allora, ritentiamo il collegamento che abbiamo provato a fare ad inizio trasmissione. Claudia. Eccoci. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Ciao. Ciao a tutti, tutte, chiunque. Ok? Sì, sì, benissimo. Ma ti abbiamo interrotto? No, che sto in varie iniziative del verme, vi potete solo immaginare che non avendo più una casa siamo dei nomadi che praticamente vaghiamo per la allora, città. Andiamola a ricordare un po', l'abbiamo letto ovunque quello che è successo, lo andiamo a ricordare perché il del verme è esploso. Il delvermo è esploso perché dopo un dispositivo della questura di Roma che ci ha chiuso con dei motivi ridicoli, cioè ci hanno prima detto che non eravamo associazione culturale, da quello, che già quello insomma, abbastanza ridicolo per chi frequenta il posto in maniera abbastanza insomma frequente, sa che facciamo musica e anche l'approccio che c'è è tutto meno che commerciale, però da quello è scaturito anche un bell'articolo 100 del TULPS, quindi una legge regia del fascismo del 1931 che praticamente assimila le nostre attività ad attività come il narcotraffico, lo sfruttamento della prostituzione, spaccio appunto e commercio di armi eccetera eccetera eccetera. Quindi da questa cosa che ci è arrivata tra capo e collo in una campagna preelettorale in cui la legalità appunto vige sovrana, una legalità che non si sa bene di che cosa si stia parlando, e noi abbiamo reagito perché ovviamente quella è casa nostra e comunque è stato lo spazio nostro per un sacco di tempo che è vissuto quotidianamente non certo per una questione economica ma per ben altre questioni, e insieme a noi pare che siano esplose tutte le realtà e tutte le persone che sono passate per quel posto, che a quanto pare non siano poche, e niente, quindi è successa questa cosa sostanzialmente, e adesso siamo riusciti a recuperare la nostra serrata programmazione di quasi 4 concerti a settimana, eventi e quello che è in vari spazi della città che ci stanno ospitando. Ok, vabbè, la serie di iniziative, la chiusura coatta quando c'è stata? C'è stata il 6 maggio. Insomma, avete comunque come tu hai accennato, avete avuto modo insomma di continuare la programmazione in diversi spazi grazie al sostegno insomma di chi si è dimostrato di starvi insomma più vicino, di tenere la vita del verme. Ricordiamo un po' di spazi insomma che con i quali avete potuto continuare la programmazione. Sì, dal 30 Formiche al Fanfulla, a Bulltopia dove siamo stati questa sera, a anche spazi improbabili come il Quirinetta che ospiterà un'altra cosa, cioè improbabili nel senso molto lontani anche dalla realtà che è quella dell'associazionismo dell'Arci, quindi è una cosa completamente diversa. E tra poco faremo appunto, ne parleremo, un evento all'interno della SNIA che è un centro sociale su Pigneto, insomma in molti lo conosceranno, che fa anche delle lotte territoriali per quanto riguarda la natura, il lago, l'ambientalismo eccetera, e abbiamo fatto un secret show di Calcutta in uno studio di nostri amici che sono dei frequentatori abituali, dei fotografi, e veramente ci hanno ospitato ovunque, in un altro studio di illustratori, sempre a Pigneto, studio 54 di Zo, che è anche la stessa persona che ci ha fatto sia il disegno nuovo sulla Serranda, sia appunto ci disegna tutti i flyerini, quindi abbiamo praticamente coperto la programmazione con spazi tra i più disparati, quindi da altri posti fisici dove si fa musica dal vivo a posti più meno probabili dove si fa musica dal vivo, ma si è fatta comunque musica dal vivo. Adesso ne ho detti un po' veramente così alla rinfusa, poi la solidarietà è arrivata da chiunque, quindi vabbè, cioè, bisognerebbe fare un elenco infinito. Penso che poi insomma un po' diciamo questo sostegno che vi sta abbracciando con questa iniziativa, con questo supporto, è un po' la traduzione dell'attività che avete fatto negli ultimi anni, no? Assolutamente sì, io penso che il riconoscimento del lavoro, ma non per noi, io penso che sia proprio una questione identitaria, cioè molti si sono sentiti attaccati anche come persone nel momento in cui ci è stato detto che nel nostro spazio si facevano attività uguali a quelle che boto, smercio delle armi o che capo della mafia, perché ovviamente la solidarietà è arrivata dai centri sociali agli squat più estremi. Io sono stata a ZK Alberfest e non ho parlato d'altro che non del verme, ricevendo solo che solidarietà e discorsi politici molto belli e molto condivisi, per dirne una, a spazi invece più commerciali che però fanno musica dal vivo e riconoscono comunque qualcosa all'interno del verme. Quindi non, uno potrebbe dire ai democristiani, no, boh, semplicemente noi non siamo mai stati uno spazio, siamo stati semplicemente sempre noi stessi in quello che era, abbiamo accolto in maniera molto trasversale tutte le cose che ci sembravano interessanti, e tutte le cose che ci sembravano interessanti, che fossero dalla cosa più estrema veramente dello squat a un locale magari un pochino più curato che fa musica sperimentale, allora nel momento in cui ci hanno chiuso si sono sentiti comunque tirati in causa, e questo è stato molto bello. Da una parte forse anche molto inatteso, perché non so, cioè il nostro posto comunque, per chi lo sa, è un buco de culo, cioè sono 80 metri qua, veramente due sale minuscole, e invece ha avuto una risonanza anche mediatica altissima, quindi non so cosa dire, cioè so che lavoro abbiamo fatto e sono contenta, che comunque vuol dire che in questo paese magari invece di dire sempre che va tutto male, invece ci stanno un sacco di persone che reagiscono a certi tipi di azione in maniera anche compatta quando vogliono, ed è bello vedere che la reazione compatta vada da persone che stanno a un estremo e a un altro, perché senti, comunque riconoscono allora, no? Un intanto comune. Sì, no, guarda, mi incuriosiva conoscere da te, insomma, mi ricordo che all'indomani della chiusura del Verme c'era stato un incontro, credo, al Fanfulla con diverse realtà. No, 30 formiche. Al 30 formiche. E, sì, ci vuoi raccontare, insomma, quello che è emerso da questo incontro, chi ha partecipato? Guarda, sono arrivate una 150-200 persone per l'assemblea, che è stato un numero altissimo, infatti non è stato neanche contenuto dal posto, e sono venuti tutti i soci più stretti, cioè le persone che vengono quotidianamente o che hanno convissuto quotidianamente all'interno del posto, ai musicisti che sono passati e sono nati tra virgolette all'interno del posto, cioè in quel posto hanno trovato, quindi molte persone giovani che hanno trovato un primo spazio dove poter suonare, dove gli è stata data fiducia, gli è stata data visibilità, gli è stato dato uno spazio dove suonare. È stato molto bello, quello per me in particolare, che io sono quella che sicura un po' più proprio i dischelli piccoli che vengono a suonare, ci tengo tanto, quindi per me è stata proprio una cosa emotiva molto bella. E poi anche spazi di solidarietà che magari non erano mai stati al Verme, ma avevano capito che era successo qualcosa, quindi comunque altri spazi che stavano in una situazione analoga alla nostra, non proprio analoga, perché analoga alla nostra a quel livello là purtroppo non, cioè, purtroppo per fortuna, speriamo non ci siano altri casi, non ce n'è stato nessuno, ma comunque si trovano in delle situazioni di difficoltà per quanto riguarda il municipio, per quanto riguarda le politiche che si stanno attuando, e quindi sono venuti a capire che cosa stava succedendo. Quindi era un pubblico molto variegato, che andava dalle persone più anziane alle persone più giovani, dall'ascoltatore di musica appunto più sperimentale all'hardcorer. E niente, è emerso che abbiamo spiegato che cosa è successo, abbiamo spiegato che cosa stava succedendo secondo noi, abbiamo spiegato la modalità e quello che bisognava cominciare a fare da quel momento in poi, se qualcuno voleva starci al fianco. E alla fine pare che la gente ci sia stata, insomma è stata un'assemblea comunque prolifica, in un momento particolare c'è stato uno scambio, sono state parole dette da soci molto più belle di quelle che potevamo dire noi, credo, quindi proprio come se sentissero la causa, come se gli avessero avuto veramente la casa. quindi quella è stata la forza propulsiva che ci è arrivata anche a noi per dire ok, dai, spostiamo tutta la programmazione, ce la possiamo fare, perché abbiamo avuto veramente la solidarietà ma anche l'appoggio reale di persone che sì, ok, non ci stanno quotidianamente come ci possiamo stare noi cinque che magari siamo il direttivo, però ci stanno veramente dentro. Allora, fino ad arrivare insomma al concerto di mercoledì prossimo Alexis Nia, che è importantissimo, secondo me un traguardo e un rilancio di quello che è questo tipo di lotta, se vogliamo dire, o di resistenza o semplicemente di esistenza. È stato fortemente voluto da tutti noi perché avrà un'impronta di quello che è l'hardcore nella sua visione più ampia, e sono tutti gruppi che comunque hanno trovato sempre spazio all'interno del Verme, così come nei posti occupati, e infatti in un posto occupato lo faremo, che è il CSOA SNIA. Abbiamo scelto un po' loro perché loro hanno dato la disponibilità, un po' perché lo spazio lo richiede, un po' anche perché loro portano avanti delle lotte, l'hanno anche scritto, sul lago della SNIA, in cui stanno prevedendo dei piccoli lavori per renderlo agibile a tutti quanti, quindi comunque c'è questo intanto comune, cioè restituire comunque dei luoghi a semplicemente di spazi a tutti. E ci siamo trovati su quello, ci siamo trovati sul fatto che la cultura ha sempre meno terreno all'interno della città, non solo quindi l'aspetto sociale ma anche quello culturale, che poi sono strettamente legati, e ci siamo trovati soprattutto il fatto di trovare uno spazio adatto per fare un concerto che noi volevamo fortemente che fosse caratterizzato dall'hardcore, perché dentro al Verme c'è passato anche quello, non è che facciamo cioè la roba sperimentale è anche quella. E infatti ci saranno gruppi come Buffalo Grills, noi Banda Trio, Rota De Fero, che sulla carta fanno cose completamente diverse. No, in realtà l'attitudine è quella, e noi ribadiamo che da quel posto si viene, da quel posto si torna, e comunque quella è l'attitudine. Quindi è molto bello che ci siano 9 gruppi che fanno a livello musicale magari cose anche diverse, ma che alla fine il filone sia quello e l'attitudine sia quella. Ok, allora, cara Claudia, andiamo a ricordare il, se lo ricordi, insomma, il programma completo di quello che sarà. No, vabbè, ricordiamo, insomma. Sì. Vuoi che te. Ok, no, allora, la mia sto su via Prenestina, sì. Cien. Allora, regà, il numero di via Prenestina, certo, non me lo ricordo. Va bene, vicino all'Largo Prenestina, tutti conoscono la mia. Per ricordarvelo, sì, guarda, sì. È tra Piazzale Prenestino, insomma, per capirci, è tra Piazzale Prenestino e l'incrocio, diciamo, cioè sta proprio. In realtà sta vicinissimo a via Luchino dal Verme, quindi è molto semplice. Sta nella zona Pigneto, insomma. La mia penso che più o meno la conoscete tutti, se non la conoscete tanto ci sono le indicazioni. E il concerto comincerà comunque abbastanza presto, che è una cosa che voglio sottolineare, ragazzi, è presto e sarà presto perché ci sono io a fare cambi palco, quindi è presto, quindi diciamo che lanciamo l'appuntamento per le 19, ci saranno cucina e bar attivi, e sul palco tra poco uscirà anche il running dei gruppi, ma vanno supportati tutti dal primo all'ultimo. Cioè non facciamo che poi vedo solo chi mi pare, no, perché spaccano il culo tutti, quindi venire da subito e rimanere fino alla fine, anche perché saremo brevissimi. E ricordiamo che ci saranno Buffalo Grills, The Measures, Lexicon Devils, Rota De Fero, Noe Banda, Leviathan, Tiger Boom, Hiroshima Rock Around, grande reunion, quindi vedrete i miei soci sul palco in delle condizioni imbarazzanti. E che ci manca? Ma che ti dimentichi? I Cenere? I Cenere? Sì, gli Outsider. Outsider? Gli Outsider. Perché? No, gli Outsider perché tipo con l'ebreo gli mandano tipo i messaggi e non mi risponde. Non so di chi tu stia parlando. No, Emanuele, ecco. Emanuele De Cenere, che è anche Emanuele De Nofu. Certo. Siccome è una persona anche lui primitiva a livello tecnologico. Allora io scrivo le cose e mi risponde 4 giorni dopo. Vabbè, insomma. Quindi hai capito. E poi insomma, sono veloci sul palco. I Cenere sono veloci, ecco. Sul palco sono veloci Non sono veloci nella vita, però. Senti, però, insomma, io devo fare il cattivo perché tu sei seconda per chiacchiere solamente al Mastello. Al Mastello bisogna citarlo comunque, perché sennò si sente offeso. Vabbè, insomma, lo conosciamo. E, sì. No, però... Cioè, ci siamo persi un pezzettino importante, che vabbè, questo bel concerto al CSOA Exnia, perché? Ah certo, per il sostegno al Dal Verme, che non è solo un sostegno di autofinanziamento, perché ovviamente voi pensate, ah vabbè, ma è chiuso. No, è chiuso 30 giorni un posto, ovviamente abbiamo le spese, che non so i soldi che ci vediamo noi, perché non siamo mai presi una lira, ma sono i soldi di gestione. Quindi comunque stiamo facendo delle attività semplicemente per mantenere vivo il posto e poterlo riaprire, perché se no non lo riapriamo, perché sono pieni di buffi e sarebbe meglio scappati con Brasile. Capiamo. E no, quello lo dico magari a forma proprio del chiarimento. E, sia per quello, ma anche secondo me per mandare un messaggio chiaro, cioè nel senso, una giornata del genere dove io ho dentro i Buffalo Grills, i Majors, i Roda de Ferro, i Cenere, deve essere proprio un messaggio, certo, culturale, di dire sembrano cose diverse magari nelle scene, sai come, invece no, siamo tutti qua. Sono tutte persone che prendono volentieri parte alla cosa a titolo gratuito, ed è bello che sia così, perché noi vogliamo continuare a fare attività che siano così, dove i valori che ci stanno, valori, sì, vogliamo usare valori, la morale, l'etica, usiamo semplicemente lo stare come vorremmo stare noi, al di fuori di un certo tipo di società che invece ci vogliono imporre. È dire ok, facciamo una serata del genere, ci sono 9 gruppi che si alternano e sono tutti belli, e capiamo che sono tutti belli e ci stanno appunto dentro a un certo tipo di attitudine, che è quella che c'è dietro al Verme. Al Verme come altri posti. Va bene, Claudia, purtroppo il tempo stringe, dobbiamo chiudere le nostre chiacchiere perché abbiamo un altro collegamento, già siamo 34 minuti oltre il termine di Do It Yourself Invasion. Quindi siamo proprio Invasion, ha fatto l'Invasion. Sì, stiamo invadendo la trasmissione. Che del nome è De Falso. Capito? Va bene, allora, dai. Quindi l'appuntamento mercoledì 1 giugno dalle ore 7 ore 19 al CSO Asnia, abbiamo bar attivo, musica bellissima e anche cucina. Bene. Allora, poi insomma andremo probabilmente a sflyerare al CSO Exnia per un altro concerto di autofinanziamento, che è quello dell'11 giugno al CSOA Il Faro, con Social Trauma, Leviathan, Malore, Obophobic. Quindi vi aspettiamo tutte e tutti lì. Ciao Claudia. Ciao, a presto. Grazie. Ciao. Grazie lo spazio. Ciao, dai. Ciao. Possono vedere la scelta. Il tuo sogno unico è solo. Il tuo sogno unico è solo. We'll be right back. Allora, 22:40 minuti. Rimanete all'ascolto. Apostasia, sono pronti. Intanto ci fanno compagnia. Insomma, stavamo tentando di effettuare un altro collegamento con un compagno di Latina, appunto per ricordare il Free Choice, Free Sex, Free Music. Quindi un festival a Latina questo sabato. E quindi un festival contro omofobia, lesbofobia, transfobia, antirazzista e antifascista, giunto alla quinta edizione. Quindi un festival che sarà con ingresso a sottoscrizione sia per il collettivo Swamp, che sta organizzando il concerto. Insieme ad altre realtà che si muovono sul territorio di Latina. Qual è l'orto occupato e il cencio? Ti ascolterò! Quindi dicevo, un festival che sarà con ingresso a sottoscrizione per il collettivo Swamp e per Radio Onda Rossa. Insomma, ci fa piacere che dell'invito appunto a questa iniziativa. E quindi sabato 28 maggio dalle ore 18 al Palaroller di Via Maira, con ben 8 gruppi: Joran Jewish, Steel Dammerung, Pets on the Moon, Patriots, Al Reason, The Crossover, Pelios e Kaufman. E quindi musica, banchetti, autoproduzioni, incursioni musicali, dibattiti, interventi, letture e microfono aperto. Il tutto credo sarà in diretta sulla web radio del collettivo Swamp, che è Swamp Radio. Ed andiamo a chiudere così la trasmissione, ringraziandovi per la pazienza. Insomma, ci siamo allargati un po' troppo. Ma sono rilassate all'apostasia. Intanto aggiunto anche il Paizo. Ma tutti hanno bisogno di ricordi che dipingono ciò che siamo. E un'intera nostra storia. E un'intera nostra storia. E un'intera nostra storia. Allora, l'appuntamento non sarà per giovedì prossimo, perché andiamo a... non ci saremo giovedì prossimo. Andremo a conoscere questa iniziativa che ci sarà a Torino, che è la Squat Around the Town. Quindi una TAZ antimilitarista benefit per i progetti per il Kurdistan. Quindi andremo a registrare un po' di corrispondenza appunto alla Squat Around the Town a Torino. quindi insomma, poi insomma, la giornata di venerdì 3 dei Squat Around the Town sarà dedicata al do it yourself e al punk hardcore, con concerti di Dead Soul Folk da Roma e Kalashnikov Collective da Milano, quindi che te lo dico a fare. Probabilmente proveremo a trasmettere un concerto magari in versione integrale, che potrebbe essere quello dei Doom. Rimanete all'ascolto perché tra pochissimo inizia Apostasia. Dai! Disputato.